Quando il bambino ebbe poco più di 3 mesi, nel pieno dei febbrili preparativi di Tamà per la festa del primo pasto, una cerimonia consistente nel dare per la prima volta al bambino del riso bollito nel latte con l'aggiunta di un po' di brodo, presenti tutti i familiari, arrivò Bungee dalla Cina. Anni dopo, Aiwan ravvisò nel ritorno del cognato il principio degli avvenimenti che si succedettero poi, ma lì per lì quel ritorno non rivestì alcuna particolare importanza, a parte il piacere di rivedere l'assente. Tamà disse: «Che fortunata combinazione che Bungee arrivi proprio per la festa!» Aiwan lo accolse con gioia e non gli parve vero di mostrargli il suo bambino. La mattina della festa andò al porto in persona ad accogliere le truppe che rimpatriavano da Shanghai. Bungee era in coda al rivolo di uomini vestiti nelle divise color terra che scendevano lungo il fianco della nave, e Aiwan, che era col vecchio Muraki, lo vide prima che gli vedesse loro. Eccolo! Bungee si fermava come smarrito non appena posto piede sulla riva e non sentiva il grido di richiamo di Aiwan. Stava per confondersi di nuovo nei ranghi e partire con gli altri soldati, ma Aiwan lo afferrò per una spalla gridandogli: «Bungee, dove vai? Eccoci qua!» Bungee si voltò. Aiwan vide subito che in molti mesi di vita militare lo avevano trasformato. Non era soltanto la vista inconsueta di un Bungee in divisa, con le gambe leggermente arcuate e strette nelle mollettiere. Era il volto stesso di Bungee, che era un altro. Non era più quel volto, quello aperto e giovanile degli anni felici. S'era come indurito, e la grossa bocca, una volta così spesso ridente e senza una linea particolare, ora pareva più volgare, quasi crudele. Vedendo Aiwan, tuttavia, Bungee rise con una vena dell'antica allegria. «Ah, stavo per andare in caserma con questi miei compagni», disse. «Li conosco da tanto tempo». «Ecco tuo padre che t'aspetta», disse Aiwan, «e devi venire in casa mia oggi per la festa di mio figlio». «Ah!» disse Bungee. Con Aiwan al fianco si fece incontro a suo padre, gli si inchinò davanti, rise ed esclamò: «Ma ora devo prendere un bagno, Aiwan, e vestirmi come si deve. Da quando sono partito non mi è riuscito di prendere un vero e proprio bagno». «Tutti ti aspettano», disse il vecchio Muraki. Era calmissimo, ma non staccava un momento gli occhi da suo figlio. Tutti salirono su un'auto pubblica. «Dunque, tu e Tamà avete un figlio», disse Bungee. «Somiglia a mio nonno come una piccola fotografia», rispose Aiwan. «Quando lo vedrai ti verrà da ridere, nonostante la somiglianza sia ora un po' diminuita. Confesso che, vedendo mio figlio appena nato, il mio primo impulso fu quello di vestirlo da generale cinese e di appendergli al petto una medaglia, se la meritava». Il vecchio Muraki sorrise vagamente. E Bungee rise, come sapesse che Aiwan aspettava la sua risata. Poi soggiunse con durezza: «La divisa di generale giapponese gli starà meglio un giorno, immagino». Aiwan guardò Bungee senza rispondere. Scherzava o faceva sul serio? No, certo scherzava. Gli sembrò che Bungee, in apparenza, non fosse mutato, ma istintivamente sentì che nel suo intimo c'era stata una trasformazione. Bungee chiacchierava, rideva e si muoveva come uno che pensa a qualcosa d'altro. Nel vecchio Bungee non c'era stata mai frattura fra quello che aveva dentro di sé e le manifestazioni esteriori. Adesso, invece, quando parlava, sembrava pensare ad altro. Persino il suo riso pareva soltanto un'increspatura superficiale di profondità malinconiche. Ma non era quello il momento di parlarne. Aiwan accompagnò Bungee e il suocero fino al cancello di quest'ultimo e là li lasciò. «Ci rivedremo fra meno di un'ora», disse. «Alle 2», convenne il vecchio Muraki. Ma Bungee non disse nulla, pareva ancora assorto in altri pensieri. Quando fu nell'albergo affollato dove si svolgeva la festa, parlò pochissimo, pur sedendo al fianco di Aiwan. Il rito della somministrazione del cibo al bambino aveva avuto luogo e tutto era andato come doveva andare. Tutti avevano ammirato il bambinello, soprattutto quando aveva robustamente rifiutato di trangugiare il cibo inconsueto che gli veniva cacciato in bocca. Non ne volle sapere e subito lo sputò fuori sulla vestina di seta nuova, urlando a pieni polmoni. Per la prima volta gli avevano fatto indossare una minuscola giacchetta, il capino Gli era stato raso di fresco sulla tondeggiante sommità del cranio. Solo più in basso, a raggiera, gli era stato lasciato un orlo di morbidi capelli neri e dritti. Bungee, osservandolo, si volse ad un certo punto a Aiwan. Si vede che non è giapponese, disse. È evidente, rispose Aiwan. Il suo sguardo si incontrò con quello del cognato. Nei suoi occhi notò una strana e segreta ostilità e se ne stupì, come se Bungee gli avesse messo sotto il naso un coltello. Lì per lì, nella sala piena di gente ammirata e conversante, non poté dir nulla. Preferì volgere lo sguardo altrove, domandandosi come mai Bungee fosse così cambiato nei suoi riguardi. Forse qualche cosa era accaduto fra Bungee e suo padre a Shanghai? Eppure, per quanto ne sapeva, non si erano mai incontrati. Aveva scritto a suo padre, dandogli i ragguagli di Bungee, reggimento e stanza, ma suo padre gli aveva risposto che non era prudente ricevere visitatori giapponesi. Una banda di giovani si era data ad assassinar gente e giusto poco tempo prima avevano soppresso un banchiere per sospettata amicizia con un capitano giapponese. Al vecchio Muraki scrisse che gli rincresceva di non poter restituire, causa e indisposizione, le cortesie di cui lo stesso Muraki aveva fatto oggetto a Iwan. Ma sperava, col tempo, quando la reciproca comprensione fosse migliorata, di rivalersi. Il signor Muraki aveva risposto che fra di loro, almeno ora che erano uniti dal loro nipotino, l'intesa era perfetta. Tama aveva domandato ad Aiwan, spalancando gli occhi, perché a tuo padre non piace Bungee? Aiwan si era affrettato a rispondere, come può spiacergli se non lo ha mai visto? Non so, aveva risposto lei, fissandolo sopra pensiero mentre allattava il suo bambino. E nemmeno io, aveva detto Aiwan. Né prima che lei avesse potuto aprire bocca, le si era inginocchiato davanti e l'aveva abbracciata col figlio. Voi due mi rendete pienamente felice, mormorò. Lei gli aveva preso una mano e gli aveva posato sopra una guancia, già dimentica della sua domanda. Aiwan non poté parlare ora subito a Bungee. Il momento non era adatto, ma gli avrebbe parlato più tardi e gli avrebbe chiesto spiegazioni. Per il resto della festa si prodigò nella sua parte di anfitrione, colmando di speciali attenzioni il vecchio Muraki a capo della tavola e sua moglie. Tutti erano allegri e gentili. Tama aveva curato personalmente la lista delle vivande, dando precise istruzioni al cuoco dell'albergo. Guardando la folla dei convitati in quel tardo pomeriggio d'estate, pareva che nessuno si preoccupasse che di mangiare, bere e del piacere di guardare il bambino, che ora dormiva placidamente nella piccola gerla fissata alla schiena di una giovane domestica. Dorme come un giapponese, almeno, osservò Bungee rivolto ad Aiwan. Come? Che cosa vuoi dire? Bungee accennò col capo alla testolina rapata del bimbo. Noi giapponesi sappiamo dormire, non importa dove, perché cominciamo così. Possiamo dormire noi tra i fragori nel movimento e non importa in quali trambusti che il cannone spari e noi non si sia per un momento a un posto comandato, pacificamente dormiamo. Questo è il segreto della nostra resistenza alla guerra. Aiwan guardò la pacifica innocenza del suo figliolino che dormiva con gli occhi chiusi e la boccuccia color di rosa. Non ha l'aria di uno che venga allenato per la guerra, osservò ridendo. Bungee sorseggiò gravemente il suo vino senza parlare. Aiwan si sentì improvvisamente solo e come separato da tutti. Per la prima volta fu conscio della sua diversità da tutta quella gente, suo figlio non escluso. Non poté tuttavia domandare subito a Bungee quale fosse il mutamento che era intervenuto in lui. In primo luogo non fu ben certo, passati alcuni giorni, che Bungee lo avvertisse. D'altra parte, era impossibile riprendere i rapporti di un tempo. In attesa che il vecchio Muraki precisasse chi doveva essere il capo della sede locale della ditta, Aiwan, desideroso di facilitare il compito al suocero, si era dimesso dal posto che occupava, ma quando il vecchio Muraki accettò le dimissioni e mise Bungee al suo posto, non gli riuscì di dominare certo sciocco risentimento per essere stato messo in posizione subordinata al rimpatriato. I loro stipendi, era vero, erano quasi uguali e almeno da quel punto di vista non v'era luogo a lagnanze. Il suo non fu diminuito e quello di Bungee fu aumentato di poco. Il suo disappunto fu tanto più vivo quando Tamà, saputa la cosa, La considerò naturalissima e prevista. Il babbo è molto gentile nel non diminuirci le entrate ora che Bungie è tornato, disse. Per Aiwan era difficile spiegarle quanto gli riuscisse ostico rassegnarsi ad un posto inferiore e il dover ora sempre rivolgersi a Bungie per tutti gli affari d'ufficio. Non era piacevole, ecco, vedere gli impiegati far capo a Bungie e ignorare quasi lui. Ma la cosa più ostica di tutte era il mutamento del cognato. Il Bungie svagato e facilone di una volta era diventato ora meticoloso e attentissimo ad ogni particolare del lavoro di Ewan. Una volta lo rimproverò aspramente per la mancata personale sorveglianza dell'imballaggio di una partita di piatti da spedirsi a un grande magazzino di Nuova York. Ewan si costrinse al sorriso, ma non si poté tenere dall'osservare: "Tu, Bungie, hai fatto peggio. Mi pare di ricordarmi dei rimproveri che ti rivolsi a Kyo in certa occasione." La vita militare mi ha istruito, replicò Bungie e tornò al suo ufficio. Aveva voluto un ufficio tutto per sé e Aiwan era stato relegato in un altro in compagnia di due impiegati. Non era più facile ora avvicinare Bungie come una volta. La cosa, a lungo andare, indispose fortemente Aiwan. Non gli restava altra consolazione che rientrare a casa con una regolarità e un impegno maggiori dell'usato, rifugiandosi più che mai in Tamae nel suo figliolino. La trovava sempre indaffarata e in quella sua cura per il bimbo e per lui trovò un certo sollievo. Con i suoi modi caldi e pratici, coi pronti discorsi, con l'immediata percezione dei suoi minimi bisogni, gli dava il senso della stabilità. Era come un'ancora che gli permetteva di tornare con spirito racconsolato al quotidiano lavoro. Ma era come il ponte di passaggio fra lui e la gente e la vita del paese. Ella sapeva raccontare anche i minimi fatterelli della giornata che gli passava in ufficio. E quei suoi conversari lo riaccostavano alla vita, gli permettevano in certo senso una comunione di atti e di pensieri col popolo che egli in realtà non conosceva che di vista. E poi c'era il bambino con le sue graziette, gli avevano imposto il nome di Giogiro, ma lo chiamavano semplicemente Giro. Già rispondeva quando lo si chiamava e Tamà si lagnava, non senza una punta d'orgoglio, che la disturbava perché già voleva trascinarsi i carponi, segno che avrebbe voluto camminare prima dell'anno, cosa che non doveva fare, anche a costo di assumere qualcuno col preciso compito di dedicare tutto il suo tempo a impedirglielo. Ma il bambino piangeva come un indemoniato, come gli accadeva allorché si negava qualcosa alla sua testardaggine. Si vede che sei un cinese, Giro, gli diceva Iwan, magari mentre il piccino, seduto a squadra sulla stuoia, masticava il canino di cartapesta che gli era stato dato quale guardiano dei suoi sogni. È l'essere cinese la causa del guaio, esclamò Tama, strappandogli di mano il canino. Nessun bambino giapponese almeno si mangerebbe come fa questo il suo cane di guardia. E Giro raddoppiava gli strilli. No, Aiwan in quella casa non era mai solo. Ed era difficile del resto individuare momenti in cui fuori di casa qualcuno lo trattasse meno bene di un tempo. La gente che incontrava per via era come sempre gentile. Il tabaccaio, quando entrava nel suo negozio a comperare, era più che mai ansioso di servirlo a dovere. Ma perché allora gli pareva che quelle cortesie non fossero uguali a quelle di cui era stato oggetto una volta. Gli pareva che non fosse quella l'urbanità con la quale la gente tratta i propri pari, bensì quella che usa con l'ospite. Neppure di queste ombre, tuttavia, era certo, come non lo era dell'accentuato riservo del suocero Muraki. Una volta ne fece parola con Tamà e lei gli rispose: "Aiwan, tu sei sempre pronto a correre con la fantasia. Il babbo diventa vecchio, ecco tutto. E l'età lo raffredda come raffredda tutti. Dimentica anche me." Egli accettò la spiegazione, ma non per questo venne meno il suo senso che qualche cosa era mutata. Si analizzò per scoprire la vera natura dei suoi sentimenti e ne concluse che la vera differenza stava soltanto in Bungie. Per uscirne non restava che dirglielo. Non poteva fare a meno, infatti, della simpatia di coloro che gli volevano bene. Qualche volta si pentiva di non essersi fatto degli amici fuori dalla cerchia dei Muraki. Salvo i pochi individui coi quali scambiava parche parole al caffè o al teatro, non conosceva infatti nessuno, ma sapeva di essere noto a tutti come il genero del signor Muraki. Qualche volta gli veniva da pensare che, morto il vecchio, egli, andando avanti così le cose, sarebbe stato designato come il cognato di Bungee Muraki. Non era piacevole, a meno che Bungee non tornasse a essere quello di una volta. Non insistette in questi pensieri e si sprofondò di nuovo nel lavoro. Si era costruita una nicchia in quel luogo e nel mondo d'oggi non sarebbe stato facile ricominciare da capo. Doveva sopportare Bungee e imparò infatti quella non piacevole arte. Rientrando a casa e vedendo Jiro che ormai camminava e cominciava a dire le prime paroline, e Tama che si impazientiva perché il figlio aveva ormai superato un anno ed era ora che ne venisse un altro, e gli rideva. E così ridendo, gli pareva che nulla di quel che gli toccava sopportare durante il giorno fosse davvero troppo penoso se gli erano concesse serate come quella. Prima di andare militare, Bungee era un giovane che non poteva bere un bicchiere di vino senza che il capo gli girasse e gli ciondolasse di sonno, ma ora si era abituato a bere smodatamente. Più di una volta gli capitò di tornare in ufficio dopo la colazione con le tempie rosse e dare ordini o ridere con troppa stentorea e affoga. In un giorno come quello fece capolino alla porta dell'ufficio di Aiwan. «Eccoti lì, al lavoro come un vecchio!» gridò. Che cosa ti ha mai fatto, Tamà? Una volta solevi essere un compagno, mentre ora non sei che il marito di Tamà. E rise fragorosamente, mentre i due impiegati che lavoravano nell'ufficio si chinavano sui loro scartafacci come se non vedessero e non sentissero niente. Io sono il padre di Giro, disse Aiwan, sorridendo appena e alzando gli occhi dalla scrivania. Un uomo, presto o tardi, finisce sempre padre di qualcuno. Ribatté Bungee. Su via, pianta lì il lavoro. Come mai? Vieni con me al caffè, basta col lavoro, dico. E lo dico anche a voi. Soggiunse rivolto ai due impiegati, quali s'alzarono di scatto, si inchinarono e rimasero in piedi dove erano. Aiwan non disse nulla. Sapeva che essi, non appena Bungee se ne fosse andato, avrebbero ripreso il regolare lavoro fino alle 5, ma a lui parve che il momento fosse propizio per chiarire le cause del mutamento di Bungee, perciò si alzò e si mise il cappello in testa. Vengo, disse. Salutò con un cenno del capo i due impiegati, i quali compresero perfettamente che gli stava al gioco del figlio del proprietario dell'azienda, e uscì con Bungee in strada. Era d'autunno e passavano fiorai ambulanti reggendo sulle spalle lunghe pertiche, alle due estremità delle quali pendevano cesti pieni di crisantemi in vaso d'ogni foggia e colore. 2 anni prima, quando egli e Tamà erano appena sposi, ne avevano comperato per piantarli in un angolo del giardino, dove avevano rigogliosamente prosperato. Ora, alla giusta stagione, erano tutti in fiore. Il vecchio Muraki soleva guardarli con disapprovazione, diceva: «In un giardino non dovrebbero esserci labili fioriture come queste». Ma Tamà non si era lasciata smontare e così i fiori erano rimasti. In buon punto, Aiwan notò un fioraio che esibiva un fiore che la prediligeva, dai petali rossi e oro, e si fermò su due piedi. «Conosci la strada che sale serpeggiando su per il lato occidentale della collina?» gli domandò. L'uomo accennò subito di sì. «Vai su, finché sulla destra vedrai una casa con un tetto di tegole color verde e fiancheggiata da due grandi pini che guardano il mare. Entra e di' alla padrona che ti manda suo marito». «Come saprà che siete voi che mi mandate?» domandò non senza una punta di malizia il fioraio. «Guardami», rispose Aiwan, «dille che aspetto ho, e se dubita ancora spiegale che sono cinese». «Ah!» disse con meraviglia l'uomo, «siete cinese voi? Ma sembrate uno dei nostri. Non ho mai visto cinesi prima di voi, ma naturalmente dei cinesi in tempi come questi tutti parlano». Aiwan lo congedò con un gesto e continuò la sua strada con Bungee. «Immagino che Tamà», disse Bungee dopo una pausa, «non sia più una moga, ma una obbedientissima moglie». C'era del sarcasmo nella sua voce, Credo che comprerai i fiori come una qualunque buona moglie giapponese. Non li comprerà se il prezzo non le parrà conveniente, osservò con urbanità Aiwan. Bungie era alterato dal vino e bisognava misurare i termini. Voi cinesi, disse con disprezzo. Ah, voi cinesi! E scosse largamente il capo. Erano davanti a un caffeuccio con poche sedie e tavolini sulla via. Bungie sedette pesantemente a uno dei tavolini e batté la tonda superficie di metallo come su di un tamburo. Una ragazza magrolina accorse. Birra, le ordinò Bungie. Bevi birra tu? Domandò ad Aiwan. Certo. Birra per uno, ordinò Bungie alla ragazza. Per me whisky. Bene, disse la ragazza. E subito. Ella disparve. Io odio gli inglesi, perciò bevo il loro whisky, spiegò Bungie quando la ragazza se ne fu andata. Un tempo bevevi meno, rispose Aiwan. Bah, un tempo ero un bravo ragazzo, vero? Beh, ora la so più lunga, ora ho imparato a bere e altre cose ancora. La strada battuta dal sole meridiano era tranquilla e stretta. Dall'altra parte una donna era intenta a dare il bagno al proprio bambino e a quelle parole di Bungie alzò gli occhi. Entriamo, propose Aiwan. Quella donna ti ascolta. Ah, le donne, sentenziò Bungie ad alta voce, sono tutte stupide. Rise come un'ebete, s'alzò e sarebbe caduto se Aiwan non lo avesse sorretto. Entrarono nel caffeuccio e si sedettero in un angolo. La ragazza venne con bottiglie e bicchieri. Aiwan pagò in anticipo e le diede una mancia spropositata. Stupide, continuò Bungie, ciò nonostante ti annuncio il mio matrimonio. Hai scelto? Domandò urbanamente Aiwan. Sì, è l'unica cosa da farsi. Povero Akio. Sospirò e scosse il capo. Non imparò mai che tutte le donne si somigliano. Aiwan non rispose. Bungie ebbe una contrazione di singhiozzo e ripeté: Dico che tutte le donne si somigliano. Le donne io non le conosco, rispose Aiwan. Non è necessario conoscerle. Dico che sono tutte uguali. Bungie era ubriaco. Aiwan tacque e Bungie continuò a bere. Perciò, continuò, ti invito al mio matrimonio. Chi è la sposa? Non lo so e non me ne importa. Ieri ho detto a mio padre, è ora di prender moglie, trovamene una. E lui, chi vuoi? E io, una donna qualunque, sono tutte a un modo. Guardò Aiwan con occhi vitrei. Si riempì il bicchiere di whisky, spargendone un bel po' e sbevazzando il resto da ubriaco qual era. Aiwan guardò dall'altra parte. In Giappone aveva visto uomini ubriacarsi, contadini che tornavano a casa cantando rockies con metà dei guadagni della giornata che bruciavano loro ventre e cervello, giovanotti e anche uomini anziani dare non edificante spettacolo dopo eccessive libagioni in ristoranti e caffè. Così era assuefatto a un vizio mai visto nel proprio paese, dove la gente beveva solo mangiando e senza mai eccedere. Beveva magari di più che qui, ma non soccombeva troppo facilmente all'alcol, forse perché di più equilibrata natura. Improvvisamente, con sua sorpresa, vide Bungie singhiozzando. Sedeva diritto, col volto spasmodicamente contratto e rigato di lacrime. Giuro che io non volevo farlo, singhiozzò. E allora perché mai l'ho fatto? Rivolse la domanda con voce rotta e triste. Aiwan, che un momento prima l'aveva visto urlante e truculento, ne fu sbalordito. Che cosa hai fatto? Tutti facevano così, capisci? Bungie appoggiò i gomiti sul tavolo e si prese il capo fra le mani. Voglio dire, tutti meno il mio capitano. Tu mi capisci, io ero tenente, io non levavo gli occhi di dosso al mio capitano, dicevo. Cercò il bicchiere con mano tremante, lo trovò, tracannò un gran sorso, tossì e scosse il capo tremando convulso. Dimmi, Aiwan, mormorò, credi che abbia bevuto abbastanza? Più del necessario, rispose gravemente Aiwan. Ah, ah, ecco che hai torto, gridò trionfante Bungie. Io bevo finché vedo che le tavole mi ballano intorno, allora mi dico basta, Ma le tavole le vedo ancora al loro posto e perciò continuo. Sospirò, ribevve e poi. Che cosa ti stavo dicendo? Domandò. Dicevi che tenevi gli occhi fissi sul tuo capitano. Così facevo, disse con ardore Bungie. Le sue grosse labbra erano mosse da un tremito continuo e l'occhio sinistro cominciava a contrarsi anch'esso in un rapido succedersi del tic nervoso. I soldati, tu mi capisci, li guardavo come miei inferiori, non soltanto di grado. Dopotutto, mio padre è un uomo di grandi mezzi e dico spicue aderenze. Il generale Seki è mio amico, devo a lui se sono tenente. Così mi dicevo, non sono mica un ufficiale come gli altri. Avevo ragione, non ti pare? Domandò con ira. Perfettamente, rispose Iwan domandandosi dove sarebbe andato a finire. Gli uomini di truppa dunque facevano certe cose. Io mi dicevo che non avevo nulla a che fare con essi. Mi dicevo la loro bassa natura li costringe Avevo ragione, eh? Finché il capitano non le faceva anche lui quelle cose, nemmeno io. Ma quali erano le cose che dici? Domandò Iwan. Te lo sto dicendo, non ti pare? Sei uno stupido tu, Iwan. Cinese sei. E tutti i cinesi sono stupidi. Aiwan cominciava a perdere il controllo su di sé, ma si dominò ancora. Stupidi e vili, continuò Bungie. Li mettevamo regolarmente in fuga, come se tutto fosse un gioco. Davamo loro denaro perché se ne andassero e loro andavano, quasi tutti. Quelli che restavano li sbaragliavamo. Se avessi visto come correvano, e rise. Con le lacrime che ancora gli rigavano le gote. Scosse il capo e tentò ancora di versarsi dell'altro liquore, ma non riuscì più a trovare la bottiglia. Aiwan non lo aiutò e preferì guardarlo mentre armeggiava alla ricerca del piccolo bicchiere bianco. Bah, almeno so ancora dove ho la bocca, disse l'ebro. Si alzò. E si portò la bottiglia alle labbra e ciò fatto tornò a sedere, di nuovo scosso dai singhiozzi. La colpa è del capitano, vedi? Avevo visto gli uomini di truppa sollazzarsi giorno e notte. Credimi, Iwan. Si protese verso Iwan, sempre singhiozzante e tremante. A guerra, scaraventa, l'uomo, per così dire, troppo in alto. Si ha bisogno di cose forti, allora, vino. Molto cibo, molte donne. Si ha bisogno di 100 cose in una volta. Gli è perché si ha il rombo del cannone troppo nelle orecchie e vedi, si può crepare da un istante all'altro. Non si ha tempo che per le cose che si possono strappare via passando. Pungi ora parlava seriamente. Pareva anzi che la sua serietà lo avesse richiamato a una più sobria visione delle cose. A tutta prima mi parve orribile, capisci? Uomini che davano ovunque la caccia alle donne, giovani e vecchie, e dissi al capitano, dobbiamo permettere una cosa simile? E lui, dobbiamo permetterla se vogliamo che domani combattano. Che cosa mi rimaneva dunque da dire? Non guardai più i soldati e non ebbi più occhi che per il mio capitano, mi dicevo, finché non lo fa anche lui. Tremava tutto. Così ti domando, Aiwan, perché lo fece anche lui? L'ho visto coi miei occhi. Si fece portare una donna nella tenda. La donna gridava e si dibatteva, ma lui, come se gli sorridesse. Io ero pazzo. Corsi fuori nella via, io e la prima donna che vidi era una bambina, metti che avesse 12 anni. No, poteva averne solo 10, 15, forse era troppo piccola per la sua età. Comunque la trascinai in un viale. Bungie batteva quasi i denti, divorava con gli occhi Aiwan mentre parlava come fuori di senno. Non volevo farlo, ma una volta cominciato. Mi capisci? Colpa del capitano. Tu mi capisci bene, non è vero? È colpa della ragazza anche. Come strillava, strillava che ero brutto. Scimmia mi chiamò. Dissi. Chetati, ma lei niente, continuò a strillare, via di vincolarsi, le dissi, stai tranquilla o t'ammazzo. Ma lei ancora niente, perciò Dopo l'ammazzai? Piangeva a dirottura. Capisci, Ewan? E quando la vidi cadavere, mi venne da pensare che non aveva capito quello che dicevo. Io parlavo in giapponese, senza pensare. Non ci pensai che dopo, come poteva venirmi in mente? Ecco la mia colpa, Aiwan. Crollò con le braccia sul tavolo, singhiozzando. Nel caffeuccio avevano messo in funzione un grammofono e i pochi avventori vedevano, ma non capivano. Aiwan restò immobile come una statua. Gli girava il capo, vedeva tutto ora, quello che Bungee gli era andato raccontando.